Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quattordicesimo, versi 1-307. Glauco, pescatore mutato in dio marino, ha tentato invano di sedurre la bellissima Scilla. Furibondo, decide di utilizzare gli incantesimi della maga Circe e punta sul suo palazzo. E già si è lasciato alle spalle l'Etna, che schiaccia la bocca del gigante, e il territorio dei ciclopi, che ignora l'aratro e il rastrello, e sui bovi aggiogati non ha mai fatto conto. Ma chi? Il dio che dimora nelle acque turbolente dell'isola Eubea. E Zanclea si è lasciato alle spalle, e di fronte le mura di Reggio, e lo stretto stritola navi che, strozzato fra coste gemelle, il confine costituisce tra la Sicilia e l'Italia. Di lì, risalito il Tirreno a grandi bracciate, Glauco guadagna i verdissimi colli e il palazzo di Circe, la figlia del sole, gremito d'un vasto assortimento di belve. Appena la vede, scambiatisi i saluti di rito, lui dice: «Dea, abbi pietà d'un dio, ti imploro. Ci sei solo tu che puoi, ma non so se lo merito, assistermi in questo mio amore. Quanta sia la virtù delle erbe, nessuno, figlia del sole, lo sa meglio di me, che ho cambiato natura in virtù delle erbe. Però sarà bene tu sappia la causa del mio delirio. Ecco, davanti a Messina, in riva all'Italia, m'è apparsa Scilla. No, mi vergogno a dirti quante promesse, preghiere, lusinghe ho prodotto e quanto mi ha detto di no. Ma se c'è una formula magica che abbia qualche potere, tu pronunciala, bocca santa. E se un'erba funziona anche meglio, utilizza le comprovate virtù di quell'erba preziosa. E non ti sto supplicando di guarirmi le piaghe, non voglio guarire. Vorrei che bruciasse della stessa passione anche lei. E Circe, a passioni del genere nessuna è più incline di lei, non chiedermi se per carattere o perché della brutta spiata del sole suo padre, Venere non ha smesso di vendicarsi. Risponde: meglio faresti a cercarti chi ti dia retta, che sogni i tuoi stessi sogni, che voglia le stesse tue voglie. Cosa preghi? Sei uno che può benissimo farsi pregare. Lascia un minimo di speranza e vedrai se nessuno ti prega. E tanto perché tu non dubiti della tua bellezza, son qui, eccomi, dea come sono, figlia del sole raggiante, per potente ch'io sia con le erbe o con le mie formule magiche, io non chiedo che di essere tua. Disprezza chi ti disprezza, ricambia chi t'ama, così in una mossa a due donne dai quel che si merita, gli alberi spunteranno nel mare. Ribatte Glauco a chi vorrebbe sedurlo. Sulle cime dei monti le alghe, prima che cambi il mio amore per Scilla, fin tanto che è viva. La dea si offende a morte, ma siccome non può infierire su lui e non vuole, lo ama, che fa? Se la prende con quella che lui preferisce. Furiosa per quel suo amore umiliato, è già lì che trita in un orrido intruglio erbe pestifere e, tritandole, le insaporisce con qualche formula actonia. Poi mette i suoi veli blu e, passato in rassegna l'esercito delle sue bestie feroci e adoranti, lascia il palazzo e, puntando sul Reggio, città prospiciente le rocce di Zanclea, s'inoltra su un mare che ribolle di cavalloni, sui quali cammina tranquilla come fossero terraferma. Così va sulle acque senza nemmeno bagnarsi i piedi. c'è una piccola cala sinuosa. Lì Scilla adorava riparare in pace, a difendersi dal caldo eccessivo dell'aria e dell'acqua, nel tempo che il sole è all'apice della sua corsa e, piombando a picco, riduce le ombre ai minimi termini. La dea sgocciola nella caletta portentosi veleni e la inquina. Poi ci versa un umore spremuto da qualche radice letale, lasciando uscire da quella sua bocca di maga 3 volte per 9 un suo ritornello tortuoso di oscure parole. Arriva Scilla, ma appena si è immersa fino alla vita, che vede la vulva spurgarle un'oscena cintura di mostri latranti. Non immaginando potessero essere parte del suo corpo, fa per fuggire, scacciare quei musi protervi di cane che la spaventano, ma quello cui vuole sfuggire se lo tira dietro. E poi, quando si cerca le cosce, i ginocchi, i piedi, al posto loro non trova che grugni di Cerbero. Sta infissa su cani rabbiosi e con la pancia che insiste sugli inguini mutilati salda e comprime le bestie. Piange Glauco amoroso e rifiuta di unirsi con quella Circe che ha fatto dell'erba il più crudele degli usi. Scilla è rimasta sul posto e appena ne avrà l'occasione sfogherà il suo odio per Circe, sottraendo a Ulisse i compagni, e di lì a poco avrebbe inghiottito anche navi troiane se non si fosse per tempo trasformata in una scogliera, e anche scogliera evitarla è buon uso dei marinai. Evitata la forza di remi, lei con l'ingorda Cariddi, la flotta troiana, sul punto di toccare la costa d'Italia, è ricacciata dal vento verso le spiagge africane. Didone e Sidonia, ivi accoglie Enea nel palazzo e nel cuore, e quando poi lui la abbandona, non rassegnandosi affatto, in cima a una pira allestita come fosse per un sacrificio, raggirata, raggira tutti e si getta sopra una spada. Fuggendo una volta di più dalla nuova città del paese delle sabbie, Enea torna su Erice a trovare il carissimo Acate e a officiare un bel sacrificio sulla tomba del padre, per poi ripartire su navi che Iride per poco non gli bruciava. Giunone mandante, e si lascia alle spalle il regno di Eolo che fuma zolfo bollente e gli scogli delle sirene, figlie dell'Acheloo, per poi, perduto il pilota, costeggiare in Arime e Procite e le isole Pitecuse, tutte scoglie e col nome che viene dal greco Pitecos, scimmia. Che un giorno, esasperato dalla mala fede dei cecropi e dalle porcate di quella gentaccia, il Padre Celeste, per punirli, decide di farne animali. Animali però molto diversi dall'uomo, ma che gli somiglino molto. Li riduce di taglia, rincagna i nasi e li spinge più indietro della fronte. Li traccia in faccia di rugoline senili, ricopre quei corpicciattoli completamente di peli e li spedisce nelle isole, premurandosi di privare dell'uso della parola quelle linguacce spergiure, cui non consente nient'altro che stridere rochi lamenti. Superate le isole, sulla destra lasciati i bastioni di Partenope, sulla sinistra il tumulo del trombettiere Miseno, figlio di Eolo, e una zona di stagni melmosi, raggiunge la spiaggia di Cuma e l'antro della vecchissima Sibilla, e la supplica, Enea, di condurlo attraverso l'Averno dall'ombra del padre. E quella prima pianta gli occhi per terra, poi di colpo li alza e prorompe tutta invasata dal dio. «Grandi cose chiedi, grandissimo, segnalato per la potenza del braccio, tra i ferri nemici, tra le fiamme, per la pietà. Non aver paura, troiano, otterrai tutto quello che vuoi e con la mia guida vedrai i campi d'Eliso, l'estremo dei tre regni dell'universo e l'ombra adorata del Padre. La virtù non conosce via impervia. Ciò detto, gli indica nel bosco della Giunone infernale un ramo che tutto sfolgora d'oro e gli ordina di staccarlo dal tronco. Enea esegue ed accede così agli immani possedimenti dell'orrendo Plutone. Così rivede gli avi e l'antica ombra di Anchise Magnanimo, apprende le leggi del luogo e gli incombenti pericoli delle guerre che ancora lo aspettano. Poi, mentre rimonta la via stanchissimamente a ritroso, inganna lo sforzo parlando con la sua guida cumana. Così, nel crepuscolo spento che avvolge il cunicolo, fa: «O dea che tu sia, non lo so, o amatissima dagli dèi, tu sarai sempre per me più che divina e per sempre ti sarò grato di avermi dato accesso al regno dei morti e, una volta vistolo, avermi estratto dal regno dei morti. Per questi meriti, appena all'aria aperta, ho deciso di costruirti un tempio e bruciarci incenso per te». La profetessa si gira e in un lungo sospiro risponde: «Non sono nessuna dea, e tu non bruciare incensi a un essere umano. E perché l'ignoranza non ti confonda, sappi che vita eterna, senza buio alla fine, potevo ottenerla, mi fossi dischiusa alle brame di Febo Apollo. Non voleva che quello, sperava di sedurmi con i regali e diceva: di quello che vuoi, vergine bella di Cuma, qualsiasi cosa e la avrai. Io prendo un pugno di cenere, gliela mostro e, come una scema, gli chiedo tanti anni di vita quanti erano i grani di polvere che avevo in mano, ma senza precisare che tutti questi anni li volevo di giovinezza. E dire che la giovinezza lui me l'avrebbe concessa lo stesso se avessi ceduto. Ma eccomi qui, rifiutati i regali di Febo, per sempre nubile, e i tempi più belli io me li son persi e mi sono vista arrivare addosso, soppicando, una vecchiaia che non finisce più. Ho 700 anni suonati e per raggiungere il conto dei granelli mi mancan 300 raccolti e 300 vendemmie. Verrà il giorno che, alta com'ero, il tempo mi avrà ridotto una nana e questo mio corpo, consumato dalla vecchiaia, peserà meno di niente. Che a un Dio piacessi, che un Dio mi amasse, non sembrerà possibile. Febo in persona, posto che mi riconosca, negherà quell'amore a vedermi conciata così. Quando poi sparirò, mi conosceranno solo dalla voce. Il destino non mi lascerà che la voce». Queste cose rammemora la Sibilla cammin facendo, e il troiano Enea finalmente affiora dall'Ade e si trova nella città di Cuma. Officiati i riti, si porta nel sito, che ancora il nome non ha, della balia Caieta. Lì s'era fermato a pezzi, in capo a diversi accidenti anche lui, Macareo di Nerito, compagno dell'abile Ulisse, e riconosce Achemenide, abbandonato a suo tempo alle falde dell'Etna. Stupito di ritrovarselo vivo, così, d'improvviso: «Che colpo di fortuna o che razza di Dio ti conserva, Achemenide? Strano che un greco viaggi su nave straniera». «E dov'è diretta?» gli fa «questa nave straniera». L'interpellato Achemenide non più come una volta coperto di stracci, spillati con le spine, rimessosi bene in sesto, risponde: «Ch'io possa riveder Polifemo e quel grugno che sgronda sangue di uomo, se Itaca, se la mia casa stessa mi stanno più a cuore di questa nave, se adoro meno Enea di mio padre, e non potrò mai dimostrargli tutta la mia gratitudine per quanto io faccia per lui. Se adesso parlo e respiro, se guardo il cielo e la luce del sole, come potrei non essergli grato e devoto? Lo debbo a lui se non ho reso l'anima in bocca al ciclope, e il fatto che se a questo punto dovessi morire sarei sepolto in terra, o comunque non nella pancia di quello. Che cosa ho pensato, per quanto la paura mi permettesse di sentire e pensare, vedendomi abbandonato e vedendovi prendere il largo? Di urlare, ma urlando temevo di mettermi dalla parte del nostro nemico. Anche Ulisse coi suoi schiamazzi per poco non si giocava la nave. Io l'ho visto quello staccare una scheggia di monte e scaraventarvela dietro. L'ho visto con quelle braccia mostruose scagliare una raffica di pietroni più energicamente d'una catapulta, e tremavo all'idea che i venti o le ondate colassero a piccola nave, non rendendomi conto nemmeno che io a bordo non c'ero. Una volta che avete evitato con la fuga una morte violenta, lui prende a brancolare rantolando per tutto l'Etna, si fa strada a tentoni nel bosco, ma cieco va a sbattere contro le rocce, e quando protende le braccia grumose di sangue alla volta del mare, maledice la razza dei greci e grida: «Se Ulisse per caso mi ricapita fra le mani, lui o qualcuno dei suoi su cui sfogare la rabbia, divorandogli le budella, o meglio strappandogli a pezzi la carne viva e scolandomi tutto il sangue e lasciando che fra dente e dente mi tremolino le sue cartilagini, beh, sarà stato un guaio da nulla o da poco perdere l'occhio». Questo ed altro la bestia, e io divento uno straccio dalla paura a guardargli quel grugno ancora inzuppato di stragi, quelle manacce assassine, quell'orbita senza l'occhio dentro, il torso e la barba incrostati di sangue. Vedevo la morte in faccia e non era il peggiore dei mali. E già mi sentivo acciuffato, gli intestini già me li sentivo dentro i suoi. Dalla testa non riuscivo a scollarmi l'immagine di quando l'avevo visto sbatacchiare 3-4 volte per terra due miei compagni e poi accucciarcisi sopra proprio come un leone feroce e cacciarsi nel ventre ingordo carni interiora e ossa con dentro il bianco del midollo e pezzi di corpo che palpitavano ancora. Rabbrividisco. Sto lì dissanguato dalla paura, morto, e a vederlo che mastica e sputa la sua colazione di sangue e vomita grossi bocconi impastati col vino, immagino che il destino mi riservi un orrore del genere. E per giorni e giorni, nascosto, tremando al minimo schiocco, atterrito all'idea della morte e augurandomi di morire, ho tenuto a bada la fame con ghiande, erba e foglie, solo, senza risorse e senza speranze, votato al supplizio, finché, dopo un tempo infinito, scorgo lontano una nave, questa. Sbracciandomi supplico che mi salvino, corro alla spiaggia e li ho commossi, e una nave troiana recupera un greco. Ma adesso racconta anche tu le avventure che hai corso, carissimo, tu, Ulisse, e i compagni che insieme vi siete messi per mare. E quello gli spiega come Eolo sia signore del Mar Tirreno, Eolo figlio di Ippota, che costringe in carcere i venti. Come dentro una pelle di bue li stipasse per farne un fantastico regalo ad Ulisse. Come, dopo 9 giorni di viaggio, con la brezza in poppa, Ulisse fosse in vista della sua patria sognata. Come alla 10ª aurora i compagni di viaggio, arresi all'invidia e alla brama di preda, convinti che dentro ci fosse l'oro, sciogliessero i legacci dell'otre dei venti, e come la nave scalasse all'indietro le stesse onde appena percorse e tornasse nel porto del re delle Eolie. Di lì arrivammo alla vecchia città di Lamo, l'Estrigone, Macareo continua. Antifate regnava sulla regione. Da lui spediscono me con 2 compagni di scorta. E giusto la fuga mi salva con 1 compagno dei 2. L'altro, il terzo di noi, col suo sangue colora la bocca dell'empio l'Estrigone, il quale ci bracca e ci scatena dietro un branco compatto di sgherri che gettano sassi e travi e affogano i nostri compagni e affogano le navi. Una sola scampò con noi sopra e Ulisse in persona. Disperati per tanti compagni perduti, dopo aver pianto parecchio, prendiamo terra nell'isola che tu vedi laggiù lontano. Meglio da lontano vederla, da retta a chi da vicino l'ha vista. Anche tu, il più giusto dei teucri, figlio di Dea, finita la guerra, non c'è più ragione di chiamarti nemico. Enea, le spiagge di Circe, procura di evitarle. Noi pure, ormeggiata la nave, sull'ido Circeo, ci rifiutiamo di scendere. L'atroce ciclope ed Antifane, chi se li scorda? E di entrare in case che non conosciamo. Ci tirano a sorte, e la sorte spedisce al palazzo di Circe me che vedi con il fedele Polite, Euriloco e il Penore, bevitore smodato di vino, ed altri 18 compagni. Appena arrivati al palazzo, ci piantiamo davanti alla porta, ma ci vengono sotto 1000 di lupi mischiati con orsi e leonesse che ci spaventano, ma niente paura. Nessuna delle bestie sembra volerci graffiare nemmeno per scherzo, che anzi frustano l'aria con la coda, tranquille, tranquille, e ci fanno strada facendoci festa, finché non arrivano a riceverci alcune servette che attraverso un atrio di marmo ci accompagnano dalla signora. Lei siede nelle sue stanze appartate su un trono sontuoso, indossa una veste splendente su cui si drappeggia tessuta in oro un'ampia mantella. Intorno a ninfe e nereidi che non stirano fra le dita i fiocchi di lana e non tramano i fili sopra l'ordito. Mettono in ordine erbe e dispongono in tanti canestri una rinfusa di fiori e un assortimento di gambi. Lei Circe sorveglia il lavoro che fanno e, sapendo benissimo come vada usata ogni foglia, che effetto si ottenga con questo accostamento o con quello, controlla bene i dosaggi. Appena ci vede, scambiati i saluti di rito, la faccia le si spiana e sembra riceverci come meglio non si potrebbe. Senza perdere un attimo, ordina di frullare orzo tostato con miele, vino purissimo e latte cagliato, aggiungendoci furtivamente succhi non percepibili in tanto dolciastro. Prendiamo le coppe dalla sua mano esecranda, ma appena accostiamo le labbra screpolate alle coppe, appena l'orribile dea ci sfiora con una bacchetta i capelli, anche se mi vergogno, voglio dirlo, mi sento tutto ispido di setole, senza più l'uso della parola. Grugnisco invece e piombo bocconi con la faccia per terra. E la faccia me la sento ispessire in un grugno smussato. Mi sento gonfiarsi di muscoli il collo e le mani che giusto un attimo prima avevano preso la coppa ora stampano impronte per terra. E con gli altri, tutti alterati, cosa non può la pozione, mi rinchiudono in un porcile. L'unico a conservare il suo aspetto è Euriloco, l'unico che ha ricusato di bere. Non l'avesse fatto, sarei ancora uno del branco dei maiali, e Ulisse, se quello non l'avesse poi messo al corrente del disastro, mica sarebbe venuto da Circe a riprenderci. Mercurio, la torre di pace, a Ulisse consegna un fiore bianco. In cielo lo chiamano Moli e si abbarbica a una radice nera. Protetto dal fiore e dalle istruzioni del dio, Ulisse accede al palazzo e quando lei gli offre la subdola coppa e fa per sfiorargli i capelli con la bacchetta, la scaccia e, snudata la spada, la scoraggia con lo spavento. Negoziano, stringono un patto. Lei se lo piglia nel letto e lui per dote pretende i suoi compagni com'erano. Lei ci rora col succo benefico di un'erba arcana, impugnata la bacchetta al rovescio, con quella ci colpisce in testa e recita una controformula magica che inverte la formula magica. E più quella recita, più noi ci addrizziamo, levandoci da terra. Le setole cascano, l'unghia fessa del piede rimargina, ritroviamo le spalle e gli omeri, e sotto gli omeri tanto di braccia, e abbracciamo piangendo il comandante, che piange anche lui, aggrappati al suo collo. Non apriamo bocca se non per testimoniargli quanto gli siamo riconoscenti.